Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. I saluti vi vengono anche da Laura Faggin, Benedetta Acri in redazione e Valeria Bernardi in regia. Anche questa sera potete scrivere, commentare, twittare, le coordinate sono nessunluogo@radio24.it, su Facebook siamo nessunluogolontano-radio24, infine potete cinguettare, se avete dimestichezza con Twitter, a nessunluogo24. E il tema di questa sera è particolarmente ambizioso, tanto più che l'ultima attualità ci ha consegnato eventi che hanno reso ancora più complesso il quadro. Perché? Perché durante la Confederation Cup tutti noi abbiamo assistito a quelli che sono stati momenti di protesta e scontri in varie città brasiliane. Lo avete capito, vi porto in Brasile appunto, però cercheremo di slegarci un po' dagli ultimi eventi e quindi dalla strettissima attualità per andare a cercare le cause più profonde e i motivi più caratterizzanti di questo paese. Per farlo mi affido ai tratteggi di uno che le parole le sa usare bene e la chitarra forse ancora meglio. Sin dall'infanzia ci hanno insegnato che il Brasile è stato scoperto dal navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral il 22 aprile 1500. Per gli altri paesi d'America è sufficiente considerarsi scoperti tutti insieme da Cristoforo Colombo nel 1492. Il Brasile ha bisogno di essere stato scoperto dopo, separatamente. Ci raccontano che il Brasile apparve come smisurata isola in mezzo all'Oceano Atlantico Meridionale. Caetano Veloso. E così il grandissimo cantautore Caetano Veloso, nella sua autobiografia Verdade Tropical, in qualche modo tratteggiava l'educazione sentimentale dei brasiliani al proprio paese, alla propria terra, al proprio territorio. Perché proprio di Brasile, parleremo questa sera. Lo spunto viene da un libro di fresca pubblicazione, si chiama Brasile senza maschere, il sottotitolo è la parte che mi ha intrigato di più. Politica, economia e società fuori due luoghi comuni, e con noi c'è l'autore Diego Corrado. Buonasera. Buonasera a voi. Diego Corrado, avvocato e docente di diritto commerciale allo SDA della Bocconi, oltre a tutto ciò ha anche una passione smodata per questo paese che frequento ormai da quanti anni? Da oltre 10 anni, dal 2002, un anno cruciale perché nella campagna elettorale sarebbe stato eletto Lula, uno dei protagonisti di questo nuovo Brasile. Ecco, professor Corrado, non ho citato a caso questa parte biografica di Caetano Veloso perché lo fa lei nel suo libro. Perché questa peculiarità brasiliana? Perché il Brasile ha bisogno di essere scoperto dopo? Perché sottolineare questa sua diversità da poi tutta quell'area geografica, no? Al di là della lingua, ad esempio, che è diverso, il portoghese è diverso a differenza dello spagnolo. Certo, perché oltre alla lingua la storia del Brasile l'ha portato a rapportarsi molto di più con l'Europa e forse anche con gli Stati Uniti che non gli altri paesi dell'America Latina, che non vede, i brasiliani non vedono tanto come fratelli quanto forse come cugini, se possiamo fare una battuta. Il brasiliano ama viaggiare a Parigi, a coltivare le proprie radici, i rapporti con il vecchio continente e un po' la patria sentimentale, la Francia. Non ci dimentichiamo che il Brasile è l'unico paese del nuovo mondo in cui ha trovato ospitalità una corte europea, la corte del Portogallo all'inizio dell'Ottocento, per sfuggire alle incombenti armate napoleoniche si trasferì letteralmente armi e bagagli a Rio de Janeiro, che quindi per un certo periodo fu la sede della corona portoghese. Aí o Brasil no ataque, olha o cruzamento, a primeira chance! Aí na frente caindo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! La La Confederation Cup è solo uno dei primi eventi sportivi. Ci sono le Olimpiadi, ci sono i mondiali di calcio, c'è anche la giornata mondiale della gioventù che verrà celebrata dal Papa, quello non è esattamente sport, che Diego Corrado nel suo libro definisce la più colossale operazione di branding territoriale mai effettuata da un paese. Non è male, tre eventi così importanti che il paese si è aggiudicato in un arco di tempo relativamente breve danno esattamente il segnale di questa grandissima crescita. Come questa operazione di branding sta cambiando la faccia, quelle tante facce del Brasile che lei descrive nel libro? Ma diciamo che il sottotitolo che lei ha citato, appunto, fuori dai luoghi comuni, il Brasile soffre, continua a soffrire, ancorché sia sempre più noto, di luoghi comuni legati a un passato recente che lo inchiodavano a una realtà di sottosviluppo, fortissime disuguaglianze, povertà. Negli ultimi, diciamo, 20 anni tutto ciò è cambiato, la crescita economica finalmente ha trovato un sostrato di stabilità politica. Questo ha coinciso con la presidenza di Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, dal 2003 al 2010. Certo, lui non è stato il solo artefice, ha potuto contare su una politica molto di consolidamento del suo predecessore, Fernando Henrique Cardoso. Certo, ha avuto la fortuna di cogliere i frutti anche del lavoro del predecessore, molto ci ha messo del suo. Lula è un personaggio di, ancora adesso, un protagonista della vita pubblica in Brasile, un personaggio di grandissimo carisma, una figura tipica nella vita politica brasiliana, da sempre in mano all'elite. Lui è davvero un figlio del popolo, sì. Una infanzia davvero disagiata e di estrema povertà, un lavoro da operaio, l'ascesa nel sindacato fino a diventare uno dei leader delle lotte antidittatura, e quindi lui nella sua leadership, il carisma personale, l'appeal verso le classi popolari è stato un fatto importante che tra l'altro ha travalicato i confini nazionali. Ricordiamo tra gli altri la consacrazione, se così vogliamo dire, di Barack Obama, che incontrandolo a un summit internazionale verso la fine della presidenza di Lula lo ha abbracciato con grande calore dicendo: questo è il mio uomo, il politico più popolare della terra. Sì. Ecco, forse... Beh, fra l'altro non è un caso, no, che questo, come dire, endorsement emotivo da parte di Barack Obama vada a un personaggio la cui storia, ma non è l'unica delle grandi biografie brasiliane, ricalca esattamente quel grandissimo modello statunitense del self-made man, cioè uno che dalla favela riesce veramente a risalire la china e andare a guidare il paese. Non è così inusuale, no, in Brasile, che si riesca a veramente a risalire i gradini della scala sociale e poi andare a guidare. Certamente, infatti, e questo è il fatto positivo. Ovviamente il Brasile presenta ancora tanti problemi, non li ha risolti con una bacchetta magica, certo, in una manciata di anni. Però quello che era stato sempre una delle sue piaghe secolari, la fortissima disuguaglianza, l'essere inchiodati al destino segnato alla nascita, negli ultimi anni è cominciato a cambiare. Un esempio è il proprio Lula, sì, ma ci sono tantissimi altri personaggi. Per esempio ricordiamo la presidente, una donna tra l'altro, della Petrobras, che dall'infanzia poverissima nel complesso do Alemão, una delle favelas più violente e più pericolose di Rio de Janeiro ai suoi tempi, adesso tra l'altro gode di questa politica di pacificazione della municipalità di Rio, è salita al vertice di una delle più grandi società petrolifere del mondo, ma ci sono tantissime altre storie. Per esempio Marina Silva, una delle, sì, principali leader politiche, fino a 16 anni analfabeta, figlia di una famiglia di seringueiros, vissuta in una palafitta nel folto della foresta amazzonica, si è trasferita in città. È diventata una delle allieve, delle seguaci di Chico Mendes, e dopo la morte tragica per assassinio di questo leader ecologista ha proseguito le sue battaglie, è diventata un'icona dell'ambientalismo mondiale. Quindi davvero tante delle biografie dei protagonisti del Brasile di oggi ci danno proprio un'indicazione chiara della dimensione epica della storia di questo paese, sì, che sì, forse... In alcuni tratti come il nostro si sono un po' persi, perché, sì, siamo imborghesiti, se così vogliamo, sì, dire. Sì, sì, sì, diciamo che le nostre biografie sono un po' più prosaiche, mm-hmm, se vogliamo. E fra l'altro queste storie di incredibile successo in qualche modo emancipano da quello che nel suo libro lei cita, no? Questo gigantesca croce che i brasiliani si portavano dietro, la definizione che Stefan Zweig fece nel 1941, il paese del futuro. Lei racconta nel libro, addirittura i rumors precedettero l'uscita di questo libro, e nei giornali si iniziò a scrivere: ecco, sta per uscire un libro sul Brasile, è il paese del futuro. E poi invece adesso ci ritroviamo a fare i conti con un colosso dell'economia mondiale e ancora però a dover in qualche modo sgretolare dei luoghi comuni e delle iconografie consolidate che purtroppo vedono il Brasile sempre ancorato, no, alla solita storia di favela, violenza, i surfisti, il samba, eccetera, eccetera. Quando c'è il carnevale, c'è un mondo, un continente complesso, un paese continente, come è giusto definirlo, che ha mille sfaccettature che è giusto, insomma, andare a indagare nelle sue pieghe. In questo senso, una mano ce la danno sempre le cifre, e allora, come ogni tanto facciamo noi nel suo luogo lontano, Fontano, diamo i numeri. 2,73 è il tasso di crescita annuo del prodotto interno lordo. Il Brasile è passato dall'11° al 6° posto nel mondo nel decennio 2001-2011. 5,5% è il tasso di disoccupazione del 2012, il minimo storico assoluto. 40% il livello record raggiunto dalla fiscalità del lavoro. 54% la popolazione della classe media, la cosiddetta classe C, costituita da famiglie con un reddito pro capite mensile che varia dai 120 ai 400 euro. 67 milioni i brasiliani con accesso ad internet. 32 milioni gli abbonamenti alla TV via cavo nel 2010. 405.000 sono le immatricolazioni auto record avvenute nell'agosto del 2012, il 30% in più rispetto all'anno precedente. 650.000 è il numero degli indiani del Brasile sopravvissuti sino ad oggi. 200 sono le tribù di indigeni distribuite in tutta la nazione. 11,4 milioni i cittadini brasiliani che vivono nelle favelas, ovvero circa il 6% della popolazione. 29 milioni sono gli abitanti di San Paolo, la seconda metropoli più popolosa del mondo. Oltre 7,3 miliardi di euro sono gli investimenti esteri diretti giunti a Rio de Janeiro nel 2010 per le Olimpiadi del 2016. 1,2 miliardi di dollari il valore dell'impianto Ford in Brasile. 250.000 sono i veicoli prodotti all'anno dallo stabilimento. 550 milioni di dollari l'investimento di Monsanto per costruire la prima fabbrica di erbicidi del Sud America. 30 miliardi di tonnellate le emissioni di gas effetto serra annue prodotte in Brasile. 75% la riduzione del disboscamento dal 2004. Questi numeri danno un po' un'idea del colosso del continente paese di cui stiamo cercando di tratteggiare alcuni degli aspetti. Questa sera in Sul Luogo Lontano con il professor Dico Corrado, che è autore di questo volume edito da Università Bocconi, si chiama Brasile senza maschere, politica, economia e società fuori dai luoghi comuni. E la ricetta di questa crescita travolgente, perché vi sono altri paesi vicini che hanno vissuto in qualche modo problemi simili. Il Brasile, oltre ad avere grandissime ricchezze e una bella potenza demografica, ha dovuto però gestire queste cose. Chi l'ha fatto? Come l'ha fatto? Qual è la ricetta brasiliana? Certamente i protagonisti di questa storia di successo economica sono appunto i due grandi presidenti che sono i padri del Brasile contemporaneo. Appunto, abbiamo appena citati Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso, diciamo, è il primo presidente che riesce a, prima cosa, a stroncare l'iperinflazione che negli anni precedenti, che era arrivato a un tasso del 2000%, era schizzata alle stelle la disuguaglianza. Il Brasile alla fine degli anni 80 era secondo in questa infelice classifica solo alla Sierra Leone, un paese africano certo non tra i più sviluppati. Quindi lui fa, diciamo così, il lavoro sporco, grandi privatizzazioni, ridà stabilità al sistema politico. Questo ha un costo in termini di popolarità, viene rieletto comunque per un secondo mandato, ma alla fine del secondo mandato la sua popolarità, il suo gradimento è molto basso, tant'è che anche il suo pupillo candidato, quindi alla sua successione, deve prendere le distanze dalla sua gestione. L'avversario invece, Lula, che era il quarto tentativo, proprio parla di eredità maledetta, eranza maldita. Questo è uno delle caratteristiche di Lula, che riesce da un lato appunto a prendere fortemente le distanze, a proporsi come il candidato del cambiamento e della discontinuità, ma dall'altro lato modifica fortemente il suo messaggio politico, da sindacalista accusato di tendenze rivoluzionarie o comunque antisistema. Lui, pochi mesi prima delle elezioni del 2002, pubblica una lettera al popolo brasiliano in cui si impegna sotto il profilo macroeconomico a mantenere i conti in ordine, a fare delle politiche, diciamo così, ortodosse. La caratteristica di Lula, la novità, quello che stupisce la comunità, non solo l'opinione pubblica brasiliana ma anche quella mondiale, è quella di riuscire a dar prova di un grandissimo pragmatismo, quindi non smontare, non rinnegare quanto di buono aveva fatto il suo predecessore, ma ad aggiungerci del nuovo. Lui si caratterizza per delle politiche di forte sostegno al reddito delle classi popolari, anzi diciamo così dei poveri. Questo gli frutta delle accuse di populismo e di paternalismo elettorale, ma questo è il grande successo della sua doppia, del suo doppio mandato. Quindi alla fine del suo doppio mandato 30-40 milioni di persone, secondo le statistiche, escono dalla povertà e costituiscono il nervo della classe media che per la prima volta in Brasile è maggioranza. Nessun luogo è lontano. Vai, tocca! Non sei! Sabe, sim, vai! Questa è la incredibile, meravigliosa scena finale di Orfeo Negro, il film del 59, realizzato da un regista francese in collaborazione con Vinicio de Moraes. E questo mi dà il destro un po' per portarvi a Rio de Janeiro, ma non sarò io a farlo. Lo farà Alberto Riva, scrittore e giornalista. Alberto, ciao, buonasera. Ciao Giampaolo, buonasera a tutti. Alberto Riva ha scritto, fra le altre cose, Seguire i pappagalli fino alla fine e poi anche un romanzo, Sete, il tutto ambientato in Brasile, perché lì Alberto, in particolare Rio de Janeiro, ha trascorso alcuni anni della sua vita e fra l'altro anche recentemente vi è tornato. Sì. Alberto, Orfeo Negro, vabbè, tu sai che mi piace molto quel film, quindi sì, come dire, è una scelta un po'... Partigiana è dettata dalla mia estetica, esatto. Perché trovo che quel film in maniera così leggera, così pesante allo stesso tempo, tratteggi una parte dell'emotività, della sensibilità brasiliana in maniera veramente molto chiara. C'è questa spinta, da un lato epica, l'abbiamo affrontata prima col professor Corrado in alcune biografie, e dall'altro invece c'è l'aspetto poetico e elegiaco puro, per cui anche nei grandissimi contrasti, nella tragedia, nella tristezza, non è un caso, Feuri dice, è una tragedia, un mito greco che viene poi, no, riadattato. Ecco, in quegli anni di esperienza carioca, in cui hai anche vissuto la durezza delle favelas, però anche il turbinio della metropoli, eccetera, noi in questa puntata in cui smontiamo i luoghi comuni, vogliamo ritornarci nel grande luogo comune della terra di contrasti, di gioie e lacrime insieme? Sì, ma io infatti penso che il problema del luogo comune è non tanto che non sia vero, perché poi in realtà questi elementi esistono, cioè, come dire, la spiaggia, il samba, l'allegria, che è dovuta a una forte religiosità del popolo brasiliano, per cui credono veramente in Dio, non è come in Italia, che fanno finta di crederci e vanno a messa la mattina ma non ci credono, invece lì senza andare a messa ci credono, quindi sì, in realtà sono allegri. Queste cose sono vere. Il problema è la lettura univoca che si fa fuori dal Brasile di questa cosa, cioè sì, il fatto che i media internazionali di massima, soprattutto gli italiani in questo sono abbastanza monomaniacali, tendono a voler raccontare solo questa faccia della medaglia, non occupandosi dell'altra, se non per eccezioni che poi confermano la regola. Quindi in realtà questa cosa che tu hai detto è molto giusta, cioè questo elemento, questa dicotomia, questa convivenza tra queste anime diverse è un elemento del Brasile che fa del Brasile quella cosa durissima, tragica, in qualche maniera che ti mette di fronte a delle forti emozioni che possono essere anche di sconvolgimento e che in realtà però trasmettono al visitatore straniero e anche al brasiliano che continua a viverci un forte vitalismo, una forte carica vitale e che ha questo potere di rinnovarsi continuamente, che quindi continuamente di ridare speranza. Ecco, in questa vitalità sicuramente un posto centrale lo occupano le grandi metropoli del Brasile, c'è Rio de Janeiro, c'è San Paolo, però c'è anche Brasilia, ma poi ci arriviamo. Una delle cose si discuteva prima con il professor Corrado, prima di andare in onda, che spesso leggendo i quotidiani paulisti, insomma, lunghe colonne sono dedicate ai fatti di sangue, e tu stesso, ricordo, qualche anno fa mi raccontavi che gli assalti agli autobus sono all'ordine del giorno. Ecco, questa violenza, quanto è presente anche nella testa, no, di chi vive in queste città? Poi dobbiamo anche rapportare il tutto ai numeri, ricordarci quanti, che sono quasi 200 milioni di abitanti, San Paolo sono 20 milioni. Certo. Ecco, pur stemperata nelle statistiche, quanto è violenta questa società? È molto violenta purtroppo, cioè la sensazione di paura, il sentimento della paura è un sentimento molto presente nei brasiliani che vivono, sono paure diverse, cioè i brasiliani che vivono nelle zone più civilizzate delle grandi città che ricordavi tu e alle quali aggiungerei anche le grandi metropoli del nord-est, Salvador, Recife, Fortaleza, eccetera, e anche del sud, Porto Alegre, che è una città con degli indici di violenza in salita negli ultimi anni, e sono diverse, cioè chi vive nelle zone più, diciamo, civilizzate della città ha paura di essere assaltato al semaforo o nell'autobus con le armi. Chi invece vive nelle zone disagiate vive una paura proprio, diciamo così, proprio che connaturata al suo stile di vita, cioè il vicino di baracca della favela è un trafficante, chi ha il piccolo negozio è, ha l'aguzzino che gli chiede il pizzo, che può essere sia il trafficante che il poliziotto corrotto. Quindi, diciamo, sono paure di chi vive il campo, non bisogna dimenticare la violenza cosiddetta di campo del Brasile, cioè la violenza sui sindacalisti dell'agricoltura, sugli indios, sugli attivisti che lavorano con gli agricoltori, sugli estrattori di caucciù. Ci sono numeri altissimi di queste morti, che tra l'altro sono quelle più impunite, no? Ricordiamo, lo ricorderai benissimo anche tu Giampaolo, la morte della suora americana Dorothy Stang, no? Nel 2005. Gli assassini di Dorothy Stang sono tuttora in libertà. Sì. Gli assassini di Chico Mendes sono in libertà. No? Cioè, quindi questi sono i numeri della violenza che devono entrare insieme a quelli della violenza urbana. Certo, certo. Fra l'altro citavi, l'aspetto, la parte ecologica, il capitolo che potremmo aprire, fra l'altro a cui è dedicata la parte finale del libro di Corrado, e parla insomma dell'Amazzonia in un grandissimo paese continente in grandissima ascesa. Rimane questa, non saprei neanche come definirla, professor Corrado, è una parentesi, è un punto di domanda, cioè il dossier Amazzonia che cos'è per l'amministrazione brasiliana in questo momento? Ma ha sempre vissuto di una dicotomia, no? Nella vita, nel dibattito pubblico, nella politica brasiliana. Da un lato una risorsa da sfruttare, il Brasile rivendica orgogliosamente la propria sovranità, dice l'Amazzonia è nostra e ne facciamo quello che vogliamo, e siccome abbiamo bisogno di risorse, disboschiamo, eccetera. E le lobby quindi dei fazendeiros, di quelli dei commercianti di legname, eccetera. Al tempo stesso, per fortuna, c'è una crescente sensibilità ecologica, grazie anche alle lotte di Alberto Riva, appena ricordato Chico Mendes, ma dopo la sua morte, purtroppo tragica, impunita, la sua erede Marina Silva è diventata una protagonista della vita politica nazionale, e quindi questa dicotomia è presente, i numeri del disboscamento sono ancora purtroppo molto alti, ma comunque in diminuzione, quindi c'è una sensibilità ambientale che fatica certamente a imporsi, che comunque ha una voce abbastanza ascoltata, comincia ad essere abbastanza ascoltata nella politica nazionale. Quindi un dualismo rispetto a questo tema, con delle prospettive, se così possiamo dire, che mi lasciano essere ottimista per il futuro. È lo stesso ottimismo che condivide Alberto Riva o il dossier Amazzonia, anche in previsione di un ruolo sempre più importante del Brasile sullo scacchiere internazionale? Poi parliamo del BRICS e di come, no, Lula lo abbia spinto, gli abbia fatto ingranare la quinta. Il capitolo ecologia e il capitolo Amazzonia possono essere una leva per chi rema contro questo nuovo compatto agglomerato di grandi potenze straniere. Alberto, secondo te? Ma io condivido un aspetto di quello che diceva Diego, cioè la figura di Marina Silva è veramente importante, perché ricordiamo che 4 anni fa prese 21 milioni di voti, quindi ha giocato un ruolo da outside nelle elezioni, ma ha veramente la forza di raccogliere una parte dell'elettorato, e la sensibilità, i temi che lei porta avanti sono molto importanti. Io non sono in generale mai molto ottimista, ed è un difetto che ho, però in questo momento, per esempio, la presenza di Blairo Maggi alla presidenza della Commissione Ambiente del Senato la trovo una cosa gravissima, che Dilma non ha risolto. Ricordiamo, Blairo Maggi è il più grande produttore al mondo di soia e uno dei principali disboscatori della storia. Hanno messo il principale disboscatore alla presidenza della Commissione Ambiente. Vedo un certo problema, in qualche maniera schizofrenico, sulla direzione da prendere, in qualche maniera, no? Quindi tu dici, insomma, in proiezione una posizione non limpida, ecco, mettiamola così. Ma perché è vero quello che diceva Diego, cioè ci sono le lobby, la cosiddetta bancada ruralista, cioè le lobby dei fazenderos, e oggi più che dei fazenderos, di questi grandissimi produttori di materie prime agricole, sono fortissime e quindi mettono in qualche maniera in scacco poi il legislativo. Sì. Per un capitolo, che resta con il punto di domanda, ce n'è un altro che è stata una incredibile storia di creatività, di architettura. Una volta si chiamavano cattedrali nel deserto e succede invece che a volte si fanno vere e proprie città nel deserto, e anche l'area semantica, come dire, cambia, perché poi quella città è diventata la capitale. Vi faccio sentire la voce di Oscar Niemeyer, grandissimo architetto che è scomparso l'anno scorso, aveva 104 anni. Un documentario di Andrea Bezziccheri ripercorre le opere di questo grandissimo architetto. Cambiare la città. Fare uomini più felici. E fare così, rendere così gli uomini più felici. Per essere coerenti. E per essere coerenti. Anche in un scrittorio. Qui nello studio. Che in tutta terza-feira aula di filosofia e sopra il cosmo. Tutti i martedì c'è qui una lezione di filosofia e sopra il cosmo. Ecco, il pensamento degli amici fica mai semplice. In modo tale che il pensiero degli amici almeno possa essere più ampio. E loro ci comprendono. Loro capiscano. Com'è difficile essere umano. Com'è difficile, quanto è difficile l'essere umano. Com'è senza prospettive. Com'è senza prospettive. Ma noi non vogliamo creare un clima pessimista. Ma noi non vogliamo creare un clima pessimista. Noi vogliamo che l'uomo sia realista. Noi vogliamo che l'uomo sia realista. Che lui sappia che l'essere umano vive un minuto. Che lui sappia che l'essere umano vive un minuto. E tutto disapparece. E tutto scompare. Così anche Alberto Riva e il suo pessimismo sono soddisfatti in qualche modo. Esatto, mi ha sistemato. Tra l'altro volevo ricordare che io ho curato l'edizione del Mondo Ingiusto di Oscar Niemeyer. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo perché mi era sfuggito. Alberto, questa grandissima avventura che per noi italiani, farei anche solo un'ipotesi di questo tipo, non è utopia, è di più, no? Partiamo, andiamo nel deserto e facciamo la capitale. Cioè, fu, come dire, un fatto... legato proprio al Brasile degli anni 50 sotto la presidenza di Juscelino Kubitschek, che, come dire, in qualche maniera faceva voltare pagina al Brasile dopo lunghi anni di dittatura di Getúlio Vargas, ed era un Brasile, come dire, molto speranzoso, e ci fu questo gesto quasi pionieristico in cui Kubitschek era a quel tempo appunto assistito da queste figure. E da queste figure, un'intersezione in qualche maniera tra politica e creatività straordinaria, perché non solo andò Lúcio Costa, appunto, insieme a Oscar Niemeyer, l'urbanista e l'architetto, a progettare la città, ma andarono anche, per esempio, Jobim e Vinicius de Moraes a comporre la musica, la famosa Sinfonia d'Alvorada, quindi un pensiero in qualche maniera, no? Globale intorno, perché era un paese ancora con grandissime zone inesplorate, quindi c'era questa tensione. Alla costruzione. Ecco, però voglio dire, questo ci fa capire che il popolo brasiliano ha delle caratteristiche sue, perché tanti altri paesi hanno vissuto momenti, no, in cui si volta pagina, zone inesplorate. Voglio dire, la stessa epica statunitense, se vogliamo tornare a un paragone che mi ha fatto prima, però non aveva la stessa forza e la stessa anche volontà di celebrare quel momento, no? Mettendoci la musica, andando. Sì, ma perché è vero, perché i brasiliani hanno un fortissimo elemento di creatività, cioè il Brasile, tutto quello che rimane nascosto da questi luoghi comuni di cui tu parlavi è la grandissima forza creativa dei brasiliani, e la grandissima forza anche di rinascita, no? Sì. Di rinascita continua e di tensione verso la costruzione, perché sennò un paese con i problemi, le sofferenze che ha avuto il Brasile nella sua storia non sarebbe oggi così forte e così solido per certi versi, anche con tutte le sue, diciamo, ancora questioni irrisolte. Sì. È che sono veramente creativi e c'è una felicità di creazione e soprattutto un'intersezione tra le varie discipline che è una delle sue caratteristiche. Il fatto che Vinicius fosse diplomatico, chitarrista, cantante, compositore, poeta, intellettuale impegnato, tutto questo insieme non viene visto dai brasiliani come una stranezza, no? Viene visto come una cosa normale, questo essere multiplo, e i brasiliani sono un po' multipli. Io direi che infatti il Brasile è un'identità multipla, è un'identità multipla, e proprio questa la difficoltà forse che c'è nel capire e nel voler divulgare il Brasile nel modo corretto, perché il Brasile sono tanti Brasili, tante città diverse, tante zone geografiche diverse, tante personalità diverse, e molte volte vengono appunto rimangono inesplorate perché non si vuole capire che esiste la possibilità di essere multipli. E come si può aggiungere che c'è un elemento caratteristico proprio dei brasiliani, secondo me, che è proprio quello di essere capaci di introiettare tante cose diverse, proprio per questo loro essere frutto di tante culture diverse che si sono mischiate. Sì. Per esempio gli italiani, che sono tantissimi, sì, in Brasile, e che hanno fortemente caratterizzato la cultura di una città come San Paolo e non, sì, solo, anche altre. E così i francesi, gli olandesi, i tedeschi, no, anche il Medio Oriente, grandi comunità libanesi, che ci sono, giapponesi a San Paolo, bravissimo, giapponesi, sì, che sono emigrati, sono andati via dal Giappone, sì, sì, e hanno dato una forte identità a San Paolo. Sì, quindi... sì, io ricordo questi negozi meravigliosi, poi da ex praticante di arti marziali ero rapito da questi dojo, c'erano delle cose, sì, incredibili che in Italia non trovavo, insomma, quindi era abbastanza... Una cosa invece che ricordo con leggero disappunto erano questi 45 chilometri di coda, sì, all'interno della città di San Paolo. Nessun luogo è lontano. Meu coração é verde rosa, descendo morro eu vou. A música, a alegria do povo, chegou a Mangueira, chegou. Vamos embora, nação mangueirense. Le maschere del Brasile, Brasile senza maschere, il libro di Diego Corrado. Con noi c'è anche Alberto Riva, anch'egli scrittore e giornalista. Gli ultimi due suoi lavori sul Brasile: Seguire i pappagalli fino alla fine e poi ancora Sete. Alberto, io a inizio trasmissione chiedevo a Corrado quanto in futuro e come potrà giocarsi il suo ruolo internazionale il Brasile, fatto salvo, come si diceva, no, di questo grandissimo punto di domanda sull'Amazzonia, che è un dossier scottante. Lula ha dato un grandissimo impulso a BRICS, no, che è questo conglomerato, prima non ufficiale, poi invece è stato ufficializzato, di grandi potenze, non diciamo emergenti, perché ormai diventa una barzelletta. Che ruolo secondo te in futuro può giocare, soprattutto su quali scacchieri, un paese come il Brasile? Come dire, possono esserci diversi ambiti, certamente sotto il profilo economico e di diventare un paese più solido da questo punto di vista, cioè non solo produttore di materie prime non trasformate come oggi, sì, ma anche di materie prime trasformate da esportare, e non solo, diciamo, per imbottire sempre di più un mercato interno che evidentemente ha avuto una fortissima, no, cioè una grande spinta in questi ultimi anni, ma che va un po' rallentando, i numeri, sì, lo dicono, no? Sì. Perché evidentemente sono arrivati miliardi di televisori, miliardi di frigoriferi, macchine, eccetera, adesso la gente comincia a averle e la cosa rallenta. Sì. Ma diventare più forte sotto il profilo dell'export, secondo me, è questo. Quindi insieme anche, il Brasile è un paese saggio, secondo me, dal punto di vista diplomatico, e potrebbe avere più peso, sì, perché ha una grande tradizione nella diplomazia, di formare dei bravissimi diplomatici, che giocano già, che lavorano già in tanti ambiti, eccetera, e quindi di aumentare da questo profilo e quindi avere, come dire, un ruolo in qualche maniera di mediazione, perché il Brasile, il brasiliano è tradizionalmente mediatore. Lula è stato un grandissimo mediatore, no? Sì. Lula ha mediato tra la grande fame e la voglia di entrare nell'inclusione sociale e i grandi agenti internazionali economici che lui è riuscito miracolosamente a tenere in piedi. Sì. Dilma ha una, diciamo, un profilo un po' diverso e ha reso il paese, diciamo, meno, ha continuato, non è esattamente la continuità di Lula come si pensava, cioè, diciamo, delle direzioni diverse. Sì. Quindi questi sono, a mio parere, gli ambiti, e poi evidentemente è un polo dove può sviluppare più, visto che ci sono tantissime risorse, tantissimi investimenti, può diventare importante dal punto di vista anche della ricerca. E poi l'ultima cosa, sì, esportare alcune idee che secondo me sono straordinarie, come quella della produzione di cultura e di risorse che si trovano automaticamente. Diego sicuramente conoscerà i SESC, cioè i grandi centri culturali che sono assolutamente pagati. Assolutamente sì. No? Vero? Sono fantastici, San Paolo ne è piena, tutte le grandi città, esatto. centri culturali che offrono tantissime attività gratuite per tutta la famiglia. E producono lavoro, perché sono dei grandi centri di produzione della cultura e non solo dello svago e di altre cose di assistenza alla famiglia, e sono pagate queste cose da una piccolissima tassa, diciamo, compulsiva, che tutte le attività del commercio devono pagare. È una legge del 1946, questa, che funziona, viene sottratto l'1,5% lordo da tutti gli stipendi che vengono pagati nel settore del commercio in Brasile, che confluiscono in questa entità, la quale li reinveste completamente, e ci sono in Brasile centinaia di centri culturali che fanno lavorare i loro impiegati, diciamo gli artisti che vanno a lavorare lì e tutte le strutture intorno, cioè generano un grandissimo lavoro. Questo non perché tu devi andare a cercare una tassa qualsiasi da qualche parte dicendo «ah, tu sei più ricco e ti punisco, mi dai dei soldi». No, no, è un contributo. Chi ha un po' di più, mette. Sì. Perché questa cosa praticamente non si sente quasi. Tanto è vero che... Ma tra l'altro, insomma, viene da sorridere, no? Pensando ai tagli alla cultura che in altri paesi, tra cui l'Italia, vengono regolarmente effettuati, che vanno a tagliare le gambe veramente... non è solo... La cultura non è un lusso, evidentemente, ma quando poi crea un indotto e crea lavoro, evidentemente, insomma, smettiamo di dire tra che... Tra l'altro, se posso inserirmi, nel paesaggio urbano io metto Seschi Pompei, per fare un esempio, a San Paolo, un bellissimo esempio di architettura contemporanea di un'architetta italiana tramitata in Brasile, Lina Bobardi, autore anche di uno dei marchi del paesaggio paulista, il museo, il MASPI, Museo Giarci di San Paolo, che domina Avenida Paulista, quindi un marchio italiano in un posto veramente bello, dove è bello passare il tempo leggendo, ascoltando spettacoli teatrali, musica e quant'altro. Sì. Allora, siamo quasi in chiusura, intanto ringrazio Alberto Riva per essere stato con noi, giornalista, scrittore, leggete il suo Seguire i Pappagalli fino alla fine, oppure Sete. Grazie Alberto, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, grazie e buon lavoro a voi. Ciao. Abbiamo parlato di eccellenze in campo culturale, in questo Brasile, paese, continente, dalle mille contraddizioni, ma dai tanti stereotipi da andare leggermente e piano piano a sgretolare. Ebbene, una delle eccellenze in campo culturale in senso lato è una televisione e si chiama Rede Globo. O esporte na Globo é o melhor do esporte, em todo o globo. No seu país, na sua cidade, é aquele esporte espetacular, fantástico, que arrepia e faz seu coração bater mais forte. É o esporte que dá exemplo, que envolve e dá o que falar. É trabalho em equipe. É novidade, irreverência, experiência. Mas é muito mais. São todos os Neymares, Ayrtons e Daianes do mundo. É cada Maria e cada João. É o Brasil. Vabbè, allora, siamo impegnati per sgretolare i luoghi comuni, poi però ascoltiamo lo spot di Rede Globo e ci ripompia inesorabilmente. Allora, no, spieghiamo un attimo anche agli ascoltatori. Rede Globo è un grande caso aziendale, se vuole, no? Perché è forse il gruppo editoriale più grosso che c'è in Brasile. E ho trovato interessante nel suo libro, professore, perché spiega quanto in un paese così gigantesco, dalle distanze così smisurate, davvero la televisione fa quello che si diceva la TV di Stato in Italia, no? Negli anni 50-60, no? Che andava a unire il paese. Certamente, Rede Globo senz'altro ha questo ruolo, se l'è saputo conquistare, è un grandissimo conglomerato privato in mano a una famiglia, la famiglia Marinho, che oltre alle reti televisive ha tanti giornali locali, o Globo, quello di Rio de Janeiro, il principale, e ha proprio questo ruolo di aiutare a formare, uniformare l'opinione pubblica nazionale. Appunto, in un paese continente dove tra le principali metropoli ci sono ore di volo, tra l'altro se non si trova il volo diretto per andare da San Paolo alla metropoli del nord, a volte si parte un'intera giornata tra voli ed aeroporti e coincidenze, e quindi è molto importante. Tra l'altro Rede Globo ha avuto anche un'evoluzione molto importante negli ultimi decenni, da bastione di valori conservatori, quindi molto di appoggio ai militari prima e poi di appoggio ai candidati conservatori in seno politico, adesso diciamo che ha finalmente accettato e digerito il pluralismo che finalmente anche in Brasile ormai si è affermato senza remore, e quindi diciamo così non è più quell'elemento di distorsione della propaganda anche politica. Certo. Tutti i brasiliani adulti ricordano un episodio episodio nella campagna tra Lula e Collor nel 90, quando una fortissima manipolazione di una delle tribune elettorali precedenti il turno elettorale fu indicata come uno delle determinanti della sconfitta di Lula, della vittoria del candidato populista Collor, che poi avrebbe portato il Brasile sull'orlo del baratro. Sì. E invece, insomma, anche la crescita di questo grosso gruppo editoriale è segno di un paese, continente, che cresce, che in questa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo tentato di tratteggiare fuori dai luoghi comuni, come era il sottotitolo del libro di Diego Corrado, che io ringrazio. Buona serata, buon lavoro, buon viaggio. Grazie a voi. Se torna in Brasile. Non mi resta che ringraziare anche Laura Faggina e Benedetta Acri, che hanno confezionato con me questa puntata, Valeria Bernardi, che l'ha dato musica e ritmo, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per la replica di Nessun Luogo in versione extra large alla domenica alle ore 22, oppure il sabato ore 19:15. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.